9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno da Oscar Giannino, buon giovedì 26 di gennaio, qui dalla versione di Oscar, sempre con i Doors. E prima di approfondire con i nostri ospiti e con le vostre telefonate il nuovo capitolo che dopo le liberalizzazioni che adesso passeranno per 2 mesi al voto del Parlamento dopo il decreto di venerdì, il nuovo capitolo è quello aperto lunedì nell'incontro con le parti sociali. Il ministro Elsa Fornero ha esposto un documento sulla riforma del mercato del lavoro, non ha dato il documento, ritualmente ha posto solo alcuni punti e ha aperto dei tavoli tematici via internet tra parti sociali, dicendo entro un mese dobbiamo chiudere però la partita. Ecco, oggi ci occupiamo di questo, ma prima di arrivare al punto con i nostri ospiti, come sapete, in coerenza a questa impostazione allarmistica e di consapevolezza in realtà che teniamo da diversi mesi, per ricordare sempre che tutto ha un rilievo in relazione all'eurocrisi, ai dubbi giustificati che il mercato ha per la tenuta dell'euro e al nostro potenziale ruolo di detonatore dell'euro, alcune notizie dalla stampa internazionale, diciamo, da quelle che fanno meno dibattito in Italia ma che sono quelle forse più rilevanti in relazione alla crisi che l'Europa ha diffuso sempre più nel mondo. Avete visto come il Fondo Monetario abbia ulteriormente abbassato le attese di crescita del 2012 fino a poco più del 3%, le attese di crescita mondiale. Questa è una riduzione di quasi il 40% dell'output potenziale rispetto a come il 2011 era iniziato, e un 2011 un anno fa stavamo immaginando di una crescita sull'onda della fortissima ripresa del commercio mondiale al 2010, che era sul 5% e non sul 3%. Quindi la botta che i paesi avanzati, o meglio che l'Europa soprattutto, dà per la scarsa sostenibilità del suo eccesso di debito pubblico è una botta che si diffonde in tutto il mondo. Fossi in un paese avanzato ce l'avrei abbastanza con questi troppo grassi e troppo colesterolici europei che in più fanno crescere meno anche me, visto che il loro mercato non regge. Allora, alcuni flash dalla stampa internazionale. Partiamo come sempre dalla Grecia, il generale Katemerini, perché la Grecia è il punto sul quale la chiusura o meno dell'accordo tra il governo e i rappresentanti delle banche, l'AIF, sulla compartecipazione privata alla perdita di valore della carta pubblica greca in circolo nei mercati, è il punto più delicato su cui misurare la tenuta poi successiva dei titoli sovrani europei. Il quotidiano greco Katemerini ci informa che i colloqui dovrebbero chiudersi, si riaprono oggi, ma l'aspettativa generale è che si chiudano entro questo fine settimana. La novità, come vi avevo detto, è che il Fondo Monetario, attraverso Christine Lagarde e per via delle fortissime pressioni americane, ha una chiusura positiva. Siamo oramai a una quota di compartecipazione che tra il 50% di perdita secca e la quota da rifinanziare con titoli a lungo e il tasso di interesse di questa quota di titoli a lungo di rifinanziamento sta intorno al 67-68%. Le banche dicono è troppo elevata e vogliono che almeno i nuovi bond trentennali greci abbiano un tasso superiore al 4%, i greci ne vogliono uno inferiore al 3%. Questo è il punto aperto, ma la questione è che Christine Lagarde ieri è tornata con grande energia a dire che quand'anche l'AIF, cioè le banche, considerassero opportuno dire sì perché la quota di loro perdita fosse troppo elevata, allora deve intervenire la BCE e anche il Fondo Monetario è pronto a farlo. Quindi si conferma che gli americani stanno premendo con grandissima energia perché il Fondo tenga l'Europa in piedi nell'anno di elezioni di Obama. Naturalmente sapete che la compartecipazione della BCE a un accordo di questo tipo è un punto molto, molto delicato, però Anche Bloomberg ieri ha iniziato a riferire di fonti interne a Francoforte che non escluderebbero questa compartecipazione, pur di non addossare all'Europa la responsabilità di assistere a braccia conserte a un mancato accordo. In caso di mancato accordo, infatti, i greci hanno detto chiaramente che per decreto delibereranno una quota più elevata di riduzione automatica del proprio debito pubblico. In quel caso si inizia una spirale che porta all'uscita dall'euro della Grecia, al ripristino di una dracma svalutata fino all'80%, e immediatamente si trasferisce sul Portogallo la pressione. I primi segni si sono visti in questi giorni di aumento, infatti, degli spread portoghesi, perché ieri gli spread i CDS dei titoli a 5 anni portoghesi sono saliti 26 punti base in un giorno, sono arrivati al record di 1305 punti, evidentemente connessi all'andamento della trattativa di cui vi ho parlato, quella greca. In Grecia sempre Catamarini ci dice che poi le rivolte che bloccano l'Italia delle categorie, delle professioni e così via, sono in realtà copie di quelle greche, perché in Grecia c'è l'ennesima rivolta in corso. Per esempio 60 parlamentari della maggioranza guidati da un ex commissario europeo che sono contrari alla modifica del regime orario di apertura delle farmacie, quindi insomma niente di nuovo. Andiamo invece in Germania. Su Deutsche Zeitung pubblica insieme ad altri 5 grandi quotidiani europei un'intervista alla cancelliera Angela Merkel in cui rifiuta di nuovo, ripete il rifiuto tedesco di estendere la dotazione finanziaria del fondo salva stati. La frase centrale è che non ha senso continuare a promettere sempre più denaro per salvare quando invece bisogna combattere con più forza, ciascuno a casa sua e poi tutti insieme, la causa della crisi, cioè l'eccesso di debito e l'eccesso di proclività alla spesa pubblica. Mi ha molto colpito su Bild, un giornale popolarissimo che arriva a milioni di lettori tedeschi ogni mattina, un editoriale firmato da Ernst Elitz, che è una specie di usatone da culto della personalità d'altri tempi, di regime quasi sovietico, perché è dedicato ad Angela Merkel e che viene definita la signora potenza tedesca, insomma la Powerfrau della Germania, e le frasi di questo editoriale sono del tipo: vuole che l'Europa diventi di nuovo forte, vuole un'Europa capace di stare in piedi, vuole e sa che questo paese può riacquistare la sua forza solo se la Germania non diventa debole, e dice il nostro cancelliere ai paesi indebitati: lavorate duro come noi abbiamo fatto, la Germania non può essere eternamente il vostro ufficiale pagatore. Ecco, questi sono i toni. Ovviamente ai tedeschi arriva come primo il segno che si vota nel 2013 in Germania e quindi c'è chi inizia a serrare le file; secondo, non esattamente coerente con lo spirito dell'intervista alla Süddeutsche Zeitung che ho richiamato prima, perché qui in editoriali come questi, che sono quelli che poi arrivano alla pancia del lettore e del lettore tedesco, lo sforzo collettivo non viene molto descritto, viene descritto semplicemente uno sforzo di allineamento. E sapete che pure io sono il meno critico, perché i tedeschi hanno fatto davvero rigore pubblico e produttività nella loro economia. In Francia, ecco, Les Echos ci report sulla disoccupazione, che è l'ennesima botta a Sarkozy. La disoccupazione in Francia è arrivata a 2.874.500 francesi fuori dal mercato del lavoro, 9,3%, la più alta dal 1999, un aumento del 35% perché il presidente è in carica. E Le Monde ci informa che oramai, poiché Hollande, il candidato socialista, è al 31% nei sondaggi, Sarkozy al 25%, Marine Le Pen è al 17% e François Bayrou, il candidato centrista, è al 15%, non c'è dubbio che Hollande si avvii, a meno di grandi novità, a vincere al primo turno. Poi bisognerà vedere se i voti di Bayrou convergeranno su quelli di Sarkozy. In passato non c'è stata la somma aritmetica. E Le Figaro spiega qual è il think tank di economisti che stanno mettendo mano al programma, quello vero, di Hollande e dei socialisti in caso di vittoria. Ci sono figure ben note a chi si occupa da sempre di economia europea, come Jean Pisani Ferri. C'è però la figura guida sarebbe Philippe Aguillon. Philippe Aguillon è un economista che insegna ad Harvard ed è, diciamo, meno keynesiano e più schumpeteriano di Pisani Ferri. Se fosse Philippe Aguillon c'è abbastanza da sperare in una posizione socialista che non sia quella del ritorno al puro deficit. Infine, anche Trichet dice sì a un grande gruppo privato. L'ex presidente della Banca Centrale Europea, ci informa l'Eseco, ha accettato il posto del Consiglio di Sorveglianza del gigante aeronautico a controllo pubblico EATS e sostituirà lì un imprenditore privato, Arnaud Lagardère. Allora, veniamo al tema di oggi. Che cosa ho capito io? E poi chiederò invece agli ospiti che abbiamo che cosa hanno capito loro e cosa si aspettano loro. Intanto vi presento gli ospiti, li ringrazio e li saluto. Sono con noi Pietro Ichino, senatore del PD, componente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale in Senato. Buongiorno professor Ichino. Buongiorno. E Giuliano Cazzola, vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati. Buongiorno e grazie a Cazzola. Buongiorno. Allora, io ho capito questo, di questo documento che ritualmente non è stato consegnato alle parti sociali. C'è stato a quel tavolo anche un po' di incomprensione, i giornali non hanno dato molti particolari di quello che in un altro governo invece sarebbe stato descritto in ampia retroscena l'indomani, e cioè del fatto che Corrado Passera, il ministro presente, l'esposizione da parte del ministro Fornero delle 8 pagine del suo documento, fatto un intervento dicendo beh, magari le parti sociali possono anche incontrarsi tra loro, e pare che Elsa Fornero non abbia gradito, però ripeto, i giornali questo ce lo hanno spiegato solo superficialmente. Però quello che ho capito io è questo: nel documento si sarebbe espressa la propensione per una riforma dell'attuale sistema della cassa ordinaria, straordinaria e in deroga, limitandola a 52 settimane, cioè una cassa limitata alla solo applicazione ai casi di ristrutturazione di impresa in cui ci sono speranze di tenere le imprese in piedi, e non più quindi confusa con un'integrazione che va avanti per anni tentando di difendere posti dove sono e come sono quando non c'è più speranza. E questo punto numero uno, che naturalmente allarma e ha allarmato immediatamente i sindacati. Secondo, un gradimento, ma questo lo sapevamo, al triennio a tutele crescenti di inserimento, che è la proposta che sta nella proposta Nerozzi, nella proposta Madia del PD depositate a Camera e Senato. E però in quelle proposte non si cambiava il regime attuale di integratori al reddito, cioè le casse. Terza cosa, il gradimento del ministro da parte di una copertura di reddito universale, ma con il chiarimento che le cifre copertura lei non ce l'ha. Però insomma, dirlo significa dare un taglio ben preciso rispetto al modello che il ministro avrebbe in testa, e significa invitare il sindacato a chiedere con più forza soprattutto questo. Quarto, il ministro ha evitato riferimenti diretti all'articolo 18, quindi se capisco bene significa dire no alla proposta Ichino, che propone il superamento della tutela giudiziale nel caso di licenziamenti economici, non per quelli discriminatori, resterebbe sempre, con la proposta di Ichino invece di una copertura graduale di 3 anni decrescente. Quindi non toccare questo punto significa dire che non è d'accordo su questo il ministro. Me l'aspettavo, ma comunque questa volta mi sembra ufficiale la cosa. Ecco, questo è quello che ho capito io. Siccome naturalmente il cambio tra una cassa limitata alle sole ristrutturazioni, ma di 52 mesi, rispetto a nuove esigenze di copertura, senza dire chi le paga, in che proporzione, perché lo Stato risparmia rispetto a quello che ci mette sugli anni della deroga, e potrebbe metterla a quel punto a copertura di strumenti diversi non indicati. Però è anche vero che se vuole fare una copertura di reddito universale per tutti, di sicuro c'è bisogno di molte più risorse, quindi lo Stato non riesce a risparmiarne abbastanza. Di sicuro anche le imprese dovrebbero pagare di più. ma non indicando le quote, è ovvio che il confronto tra imprese che sono diventate molto dubbiose e diffidenti e sindacati che a loro volta hanno alzato la guardia diventa un pochino più problematico. Ma questo è quello che ho capito io. Chiedo invece nei primi 3 minuti a testa a entrambi i nostri ospiti di dirci con grande sincerità che cosa hanno capito loro. Comincerei con Pietro Ichino. No, ma io ho capito alcune cose un pochino diverse da queste. E innanzitutto il ministro Fornero ha fatto presente alle parti che non possiamo continuare a usare la cassa integrazione, che pure è uno strumento prezioso, importante, che ci viene anche invidiato dall'estero per la sua funzione, che è quella di tenere legati i lavoratori all'impresa in una situazione di difficoltà temporanea, di ristrutturazione con prospettiva di rientro dei lavoratori stessi. Non possiamo continuare a usarla invece come strumento per congelare le situazioni di crisi occupazionale, per differire il momento in cui si affronta il problema, perché questo costa denaro pubblico, costa all'impresa e costa ai lavoratori, perché è provato che quanto più a lungo il lavoratore viene tenuto inattivo, tanto più è difficile ricollocarlo nel mercato del lavoro. Quindi è un modo sbagliato per affrontare le crisi occupazionali. E con questo il ministro non ha detto di voler abolire la cassa integrazione straordinaria, ha detto solo perché ci possono essere anche ristrutturazioni che richiedono un intervento della cassa più corposo delle 52 settimane su 2 anni della cassa ordinaria. Si potrà trattare di unificare i due tipi di intervento, ma la disponibilità anche dell'integrazione salariale per 2 anni o 3 anni, se la ristrutturazione lo richiede, non è in discussione. È in discussione questo accordo di sistema, che corrisponde a una cultura del mercato del lavoro sbagliata, condivisa da imprenditori e sindacati, per cui quando c'è un problema occupazionale la prima cosa che si fa è mettere i lavoratori in freezer per 2 anni, 3 anni o addirittura 7 anni, come nel caso di Alitalia. E questo implica che si riformi il sistema degli ammortizzatori sociali, e qui teniamo presente che non è un problema tanto di risorse, perché attualmente la cassa integrazione è sorretta da un contributo pari mediamente all'incirca al 3%, un po' meno per le imprese fino a 50 dipendenti, un po' di più per quelle più grandi, che tranne il 2009, in tutti gli anni precedenti e ancora negli ultimi 2, ha dato un gettito nettamente superiore rispetto alle prestazioni erogate dalla cassa. Addirittura nel quinquennio precedente alla crisi, a fronte di un gettito di 3 miliardi e mezzo, 4, c'erano prestazioni per 600-800 milioni. Quindi casomai qui c'è un problema di riequilibrio del contributo, perché è così com'è, è una tassa sul lavoro industriale a cui fa pendant l'erogazione della cassa integrazione in deroga a settori che non pagano una lira di contributo, sì. Quindi c'è una distorsione evidente che non può essere conservata, che è assurda. E poi all'interno dell'assicurazione della cassa ci sono problemi di settori particolari per i quali occorre un adattamento, altrimenti il risultato è che ci sono aziende che pagano senza poter proprio strutturalmente fruire del beneficio. Ecco, il ministro ha esposto questi problemi che mi sembrano tutti molto ragionevoli, e parlare di questi problemi significa parlare anche del modo in cui si affrontano le crisi occupazionali dal punto di vista della disciplina della risoluzione del rapporto, ma è giusto non porre al centro e preliminarmente il problema dell'articolo 18, che è il modo per incartarsi e bloccarsi su una questione di principio, ma occorre affrontare il problema osservando le anomalie gravi che non possiamo più permetterci di praticare come modo normale di affrontare questi problemi, anche perché i nostri partners europei che ci guardano, a cui noi chiediamo di farsi carico in qualche misura della garanzia del nostro debito pubblico, li considerano appunto delle anomalie da eliminare. Ripeto, non tanto per una questione di equilibrio di bilancio, quanto perché è sbagliato pagare per 2-3 anni le persone per stare ferme. Non dimentichiamo che la cassa integrazione, proprio perché deve tenere legato il lavoratore all'azienda da cui il lavoratore dipende, non prevede alcuna condizionalità riguardo alla disponibilità del lavoratore per altre occupazioni, lo esclude in un certo senso, mentre un trattamento di disoccupazione che voglia accelerare la ricollocazione del lavoratore, stimolarlo al percorso di riqualificazione necessario, deve essere condizionato esattamente a questo. Nella cassa integrazione in deroga c'è un obbligo di frequentare corsi di formazione, ma sono corsi di formazione del tutto generici, per lo più del tutto inutili, ma quando anche fossero, diciamo, avessero una qualche contenuto formativo, non sono orientati alla copertura di posti scoperti con problemi di reperimento di manodopera qualificata. Sono così dei modi per tenere occupato il lavoratore utilmente, nella migliore dei casi. Questo è proprio sbagliato. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con Cazzola. Io non voglio fare sempre rompiscatole, prima di Cazzola, e gli darò subito la parola dopo la pubblicità, pongo la questione. A me sembra che questo accettare de plano, che cioè per convergenza unanime, che l'Italia dovrebbe diventare con questa riforma comunque il paese, a mio comprensione, unico al mondo in cui faremo la scelta dopo questo triennio a tutele crescenti dell'estensione più ampia e indiscriminata di contratti solo a tempo determinato che io conosca, perché l'eccezione sarebbe solo per gli stagionali e la sostituzione dei rapporti a tempo, a mio giudizio è una scelta troppo rigida e sbagliata. Naturalmente è molto popolare, perché si dice che così si dà la risposta alla precarietà. Mi tocca dire che il ricorso ai contratti a tempo determinato non è più elevato, ma è più basso di paesi come Spagna, Francia, Germania. Da noi non è praticato da media grande impresa, ma soprattutto dalla impresa micro e soprattutto dalla pubblica amministrazione in realtà. Quindi dire che diventano tutti a tempo indeterminato, secondo me è una maniera sbagliata di interpretare le esigenze del mercato e quindi di abbattere l'occupazionalità addizionale, visto che noi dobbiamo alzare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro. Può essere che io mi sbagli, ma non capisco su questo anche il centrodestra, lo dico sinceramente. Pubblicità. Eccoci tornati a parlare di mercato del lavoro, è il turno di Giuliano Cazzola per dirci cosa ha capito e cosa si aspetta lui dopo il primo contatto tra il ministro e le parti sociali lunedì scorso sulla riforma del mercato del lavoro. Allora, guardi, io trovo abbastanza singolare che un incontro con tante persone presenti non sia riuscita a ricavare una interpretazione univoca. Io ho parlato anche con molte persone che erano presenti e mi hanno dato ognuno delle versioni diverse. Questo è veramente singolare, vedremo quando il ministro Fornero ci presenterà il documento. Comunque io in soldoni ho capito questo, che il ministro ha detto che se si vuole riformare il sistema degli ammortizzatori sociali bisogna usare le risorse e gli istituti esistenti, quindi bisogna anche valersi di quanto si spende per la cassa integrazione, soprattutto per la cassa integrazione straordinaria, per la mobilità, per fare un'operazione che possa estendere la protezione anche a settori del mondo del lavoro che oggi ne sono privi. Ecco, e qui c'è stata la reazione, diciamo, delle parti sociali, le quali ritengono di tenersi il 100% di quanto hanno oggi e quindi se si vuole allargare bisogna lasciare tutto quello che c'è e dare tutto quello che c'è anche ad altri o quello che è possibile ad altri. Questo mi pare che sia la sostanza dell'incontro. E non credo quindi di aver detto delle cose diverse da quelle di Ichino. Ichino, io sono arrivato, diciamo, al sodo, sono arrivato alle risorse, Ichino ha descritto il processo. Quanto invece alla questione del contratto unico di inserimento, a me capita poche volte di parlare a nome del mio partito, no? Lei lo sa, Giannino, sì. Però ecco, io su questo sono sicuro di poter parlare a nome del mio partito. Noi siamo contrari al contratto unico, perché riteniamo che la pluralità di contratti, di rapporti che ci sono, a parte il fatto che si può fare un po' di pulizia, soprattutto laddove, diciamo, esistono le situazioni più critiche, come sono le collaborazioni, il rapporto di lavoro parasubordinato, e questo aspetto è indicato anche nella lettera di intenti. Questo è l'aspetto indicato nella lettera di intenti che il governo Berlusconi il 26 ottobre presentò in sede di G20. Però noi crediamo che la pluralità di rapporti sia una ricchezza, perché sono individuati questi rapporti, c'è tutta la polemica, i 46 contratti che è una leggenda metropolitana, no? Crediamo noi che questi rapporti diversi siano utili a regolare in modo opportuno, in modo appropriato, situazioni lavorative diverse. Se un avvocato assume una segretaria con i voucher, viola la legge, ma se un piccolo agricoltore una domenica pomeriggio vuole raccogliere l'uva e prende due pensionati e due studenti, li paga con i voucher, ha trovato la forma opportuna per retribuirli. Se gli si elimina questa cosa per come fonte di precarietà, gli si crea un danno. Allo stadio gli steward, che vanno la domenica a fare il mestiere che fanno, no? E sono persone che non fanno solo quel lavoro lì, ma ne fanno anche altri, sono pagati con i voucher, ed è la forma giusta per pagarli. E lo stesso discorso vale per il job on call, no? Che è una forma per retribuire certe prestazioni. Quindi noi siamo assolutamente contrari a questa retorica del contratto unico a tutela crescente, anche se io devo notare che c'è comunque un dibattito che è tutto orientato da quella parte, con una valorizzazione eccessiva anche di certi progetti di legge, e sembra che il governo, purtroppo questa è la critica che faccio a me stesso per il ruolo che svolgo nel PDL e al PDL, sembra che il governo l'unico problema che abbia sia quello di mediare tra le diverse posizioni del PD. La domanda che vi faccio rispetto anche esplicitamente alla posizione che ieri ha assunto il Presidente di Confindustria. Il Presidente di Confindustria ha detto, teniamoci così com'è per 2 anni, noi siamo contrari a aprirlo anche il dibattito sul tema specifico, sul punto specifico della eventuale copertura di un reddito universale, un reddito minimo, lo si può chiamare in molti modi a seconda di come lo si concepisca, ma insomma è chiaro a cosa si riferisce la Marcegaglia, perché dice questo non farebbe altro che scoraggiare ulteriormente la partecipazione al mercato del lavoro. Ecco, su questo, Ichino, sul punto di come sia possibile immaginare una riforma contestuale degli strumenti attuali per limitarli alla razionalizzazione d'impresa, distinguendo cioè tutela del lavoro così com'è rispetto alla tutela del reddito, quella giusta del lavoro quando lo si perde, ma del lavoratore, la tutela del reddito del lavoratore, rispetto a una copertura universitaria, si può fare rispetto alle esigenze e anche un po' al dramma e alla necessità di limitare l'utilizzo di risorse mettendole dove sono più necessarie, sarebbe più produttive? Si possono affrontare i due capitoli insieme, secondo lei, Chino? Io osservo che il problema del reddito di cittadinanza, o chiamiamolo come vogliamo, non è soltanto né prevalentemente un problema di risorse, ma è un problema di condizionalità, cioè di collegamento del sostegno del reddito alla persona che ne è priva con politiche attive volte a farla uscire dalla condizione di inattività, di isolamento, di esclusione dal tessuto produttivo, dal mercato del lavoro, quando ce ne sono le condizioni. Ovviamente se è un vecchio invalido è tutto un altro discorso, se è un bambino, un adolescente in stato di povertà è un altro discorso, ma in generale quando la persona sana in età attiva attiva è in quelle condizioni, se si eroga un sostegno del reddito senza questa condizionalità, queste politiche attive efficaci, l'effetto è di aumentare l'esclusione, ridurre il tasso di occupazione, che è l'ultima cosa di cui il nostro paese ha bisogno. Ora, se noi su questo terreno siamo all'anno zero, cioè il know-how necessario per attivare questa condizionalità i nostri servizi pubblici non ce l'hanno per niente. Il mio progetto FlexSecurity mira a far acquisire al nostro sistema questo know-how, che in realtà noi abbiamo ma soltanto in alcune società, imprese di outplacement, di assistenza intensiva, che operano giustamente a fine di lucro perché è il loro mestiere, ma che quindi hanno un'attività molto limitata rispetto alla base, al tessuto produttivo generale. E secondo me noi dovremmo puntare sul know-how che quelle imprese hanno, ampliandone l'attività e diciamo facendo sì che il loro livello di efficienza e produttività ed efficacia di intervento diventi il nuovo benchmark nel nostro mercato del lavoro. Ma prima di aver fatto questo, parlare di reddito di cittadinanza ha un senso per mettere in agenda un tema che caratterizza i paesi civili, ma è soltanto appunto un avvertire che bisogna affrontare il problema. Metterlo in agenda, ma non è la vera prima emergenza, sì. Se posso, ecco, essere... Però io volevo aggiungere, sì, una cosa sulla questione del contratto unico. Non so perché sia stato affibbiato al mio progetto questa denominazione di contratto unico. Vorrei chiarire che il mio progetto di riforma, disegno di legge 1873 del 2009, si limita a vietare in modo efficace l'utilizzazione della forma della collaborazione autonoma, del lavoro autonomo, in situazione di evidente posizione di dipendenza. Parlo di persone che lavorano per un'unica azienda inserite nella sua organizzazione con redditi bassi. Ora mettiamoci pure d'accordo sul limite di reddito, ma quando io assumo un muratore e lo pago 1000 euro al mese, quello è un dipendente, e invece oggi non si assume più un muratore senza la partita IVA, si assumono con la partita IVA i correttori di bozze della casa editrice, i magazzinieri, le segretarie. No, chiarissimo. Diciamo le cose come stanno. Questa è una elusione del diritto del lavoro. Non c'è dubbio. Mi permetta solo di capire, di spiegare a chi è a casa, che ho usato questa formula per evitare eccessi tecnicismi unicamente perché, se il riferimento, come mi sembra di capire, prevalente dai riferimenti che fa il ministro Fornero, tranne smentite, lo vedremo nei fatti, e all'impostazione, perché il treno di inserimento è quello dell'impostazione che c'è nei progetti Nerozzi Madia, Camera e Senato, PD, Nerozzi ex segretario della CGIL, allora il riferimento diventa a una scelta che, rispetto anche alle soglie indicate nel suo progetto di legge, come sai, è diversa, e quindi fa pensare in realtà non a quello che dice lei, ma a una scelta di restrizione molto molto molto più significativa, non solo nei casi elusivi del tempo determinato, ma invece a una restrizione secchissima del tipo di contratti che possono, rispetto all'attuale ordinamento, essere praticati aperti a tempo determinato. Mentre tornano le note in conclusione come all'inizio dei Doors, la domanda per Cazzola era la stessa, cioè reddito universale, reddito di cittadinanza, si può fare questo mentre bisogna forse avere più emergenza nel rimettere mano a integratori di reddito, ma che consentono la ristrutturazione delle imprese? Allora, guardi, innanzitutto io riconosco che il progetto di Chino è diverso dall'ipotesi di contratto unico, Boeri, Nerozzi, Madia. Chino, in sostanza, la sua proposta è una riforma del contratto a tempo indeterminato che affronta il problema, diciamo, dei lavoratori economicamente dipendenti, no? Che è la stessa impostazione anche di Sacconi, quindi su questo c'è accordo, e convive con altre forme diverse di regolazione del rapporto di lavoro. È l'idea del contratto prevalente, del contratto unico, che sostanzialmente ridimensiona, porta, no, gli altri strumenti contrattuali che noi condividiamo. Quanto alla sua domanda, Io sono d'accordo con lei e noi dobbiamo, al di là di come lo chiamiamo, di qual è il nome iuris che gli sarà dato, noi dobbiamo avere strumenti di tutela sociale che siano legati alla promozione, all'inserimento del lavoro, e quindi non un reddito di cittadinanza che vada comunque a... Ci può essere anche un po' questo strumento, no? Ma in Italia, per esempio, abbiamo provato nella seconda metà degli anni 90 a introdurre un reddito minimo garantito, sperimentato, che ha finito per arrivare davanti al giudice, perché era affidato ai comuni ed è capitato che molti comuni ne avevano abusato. È capitato, lo dico fuori dai denti, aspetti, è capitato perché non tutti se lo ricordano, ma è capitato quello che io provocatoriamente direi, che nei comuni, in alcuni comuni, non troppo pochi rispetto al totale della sperimentazione, si finì rapidamente a utilizzare tipo le liste di disoccupati di lungo periodo a Napoli. Ecco, lo dico apposta in maniera provocatoria, ma per capirci e spiegare a chi è a caso. Mi scusi l'interruzione. No, è vero, ma c'è un problema comunque anche di promozione sociale degli emarginati, no? Di quelli, però ecco, io credo che oggi il problema sia quello, al di là di come lo chiamiamo, di avere uno strumento di tutela sociale che sia collegato al lavoro e che sia adatto alle diverse forme di lavoro e senza che nessuno, in buona sostanza, appartenente al mercato del lavoro, ne sia privo come avviene oggi. Ecco, questo mi pare sia lo scopo della riforma degli ammortizzatori sociali. Allora, sentiamo alcuni ascoltatori. Giovanni da Milano, prego Giovanni. Sono Giovanni Masala, buongiorno, saluto preliminarmente il professor Ichino, che conosco e col quale ho avuto il piacere di confrontarmi altre volte. Io volevo porre una questione di fondo, cioè vorrei porre il problema che, a mio vedere, in Italia flessibilità è diventata precarietà, perché in realtà c'è lo scarso rispetto delle regole, c'è il senso dello Stato, il senso delle regole del comune vivere, del civile vivere. Mi riferisco per esempio a uno strumento fondamentale, straordinario, a mio vedere, per risolvere la crisi, cioè l'uso della cooperazione di produzione e lavoro. Ebbene, c'è la stragrande maggioranza delle cooperative di lavoro sono in mano alla criminalità organizzata che le gestisce al sud, come tutti sappiamo. Abbiamo 2 milioni di persone che vengono assunte con la lettera di dimissioni in bianco. Questo è il problema di fondo. Noi abbiamo trasformato un sistema di flessibilità sulla carta, l'abbiamo trasformato in un sistema di precarietà perché non c'è il rispetto delle regole. Ma io non credo. Io francamente questa è una cosa che mi provoca per come io vedo e credo di conoscere, dal mio punto di vista, che dichiaro sempre, la realtà produttiva economica italiana. Io non sono convinto di questa roba, che noi abbiamo come sempre la atavica anomia italiana, che lo risolviamo con la legge penale IPM e gli ispettori del ministero. Gli ispettori del ministero servono, però se andiamo a vedere dove il fenomeno viene praticato certo dove esiste anche una propensione all'illegalità, come dice lei, però la pubblica amministrazione vi fa ricorso in maniera massiccia per aggirare i limiti alle piante organiche dei nuovi assunti. E questa roba si chiama scandalo politico, clientela e illusione che la coperta del debito pubblico ci sia per tutti. La malattia italiana è quella, ed è lo Stato che aggira a se stesso e che alimenta da sempre, è successo nella scuola, nell'università, eccetera, eccetera, eccetera, è successo nella pubblica amministrazione per superfettare questo pachiderma mostruoso che, a mio giudizio, tutti riusciamo a non vedere come l'origine del problema italiano. È l'origine della bassa produttività italiana, è l'origine del debito pubblico italiano. E non c'entra niente con l'illegalità, perché questa illegalità è quella dello Stato e di chi agisce in suo nome. So che sono radicalmente diverso da chi pensa invece che il problema sia l'infezione della società civile e degli imprenditori cattivi, ma i punti di vista sono diversi da questo punto di vista. Ripeto, altrimenti noi avremmo la grande impresa, la media impresa, il tessuto della piccola impresa che esporta, il 15% del totale dell'export manifatturiero italiano è microimpresa, che dovrebbero avere una adozione massiccia di queste figure contrattuali. Non è così, ci sarà una ragione per cui non è così, però naturalmente è facile dire che è colpa dell'imprenditore. Tra l'altro, al volo, Ichino ha visto che le hanno risposto oggi, c'è anche sul Corriere della Sera la risposta dei Fiom su quello che aveva scritto su Pomigliano. C'ha una replica ulteriore alla... Certamente domani o dopo il Corriere, spero, pubblicherà la mia risposta. Ma in due parole ce l'anticipa. osservo soltanto questo. È vero che nello stabilimento di Pomigliano ci sono relativamente pochi iscritti alla FIOM, ma in proporzione rispetto alle proporzioni precedenti, ma è anche vero che molti iscritti alla FIOM assunti a Pomigliano non si riiscrivono alla FIOM, e questo è abbastanza facilmente comprensibile, dal momento che quello stabilimento, se fosse per la FIOM, non esisterebbe neanche, perché la FIOM ha dato indicazione ai suoi iscritti e a tutti i lavoratori di votare no al referendum. Se avesse prevalso il no, quello stabilimento non ci sarebbe, e sarebbe un fallimento sindacale e fallimento anche più in generale per la nostra economia. Ora, poiché i fatti hanno una loro durezza e fa premio sulle scelte ideologiche, oggi i lavoratori vedono che cos'è quello stabilimento, ne sperimentano i caratteri, che non sono quelli della spremitura del lavoratore come fosse un limone, del lavoro più pesante di prima. Non è così. Lo stabilimento è, dal punto di vista tecnologico, un gioiello, ma lo è anche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, dal punto di vista della persona che ci lavora. E quindi la FIOM ha di che riflettere. No, è chiarissimo quello che ha detto. Posso chiedere una cosa, Cazzola? Ma voi che fate? Mandate il documento online ai tavoli tematici aperti dal ministro con la nuova tecnologia digitale? Sì, beh, questi sono i capolavori di Brunetta. Io vorrei chiedere però a quello che è quell'ascoltatore che è intervenuto, chi gliel'ha detto lui che ci sono 2 milioni di missioni in bianco? Lo so, ma questo è, lo so, che vogliamo fare? Allora, io ringrazio Cazzola Aichino, bella battuta però, i capolavori di Brunetta, che non fa polemica con la Fornero, ma insomma col compagno di partito. Grazie a voi, appuntamento a domani.